senza che sta vita mi che non riesco ciò a capire, non c'ho voglia avanzare mai più. Forse è vero non potrei innamorarmi io, ma lo sto a volte so proprio che non voglio più provare. Attimi vissuti insieme ma buttati via, rinda una frase e buon addio che ci ha fatto spartere. Non è più credibile capire se ci sei, ormai sei andata via da me come una stella tu. Non brilla più per me, chiedo dove sei, perché sei andata via da me. Sento che mi mancherai per ogni istante che penso ancora a lei, i suoi ricordi dentro me saranno indelebili. Pensa che la storia è venuta un anno fa, non riesco più a scordare, mi è rimasta nell'anima. Non ci credo ancora che tu non stai con me, che sei andata via da me come una stella tu. Non brilla giù a me,